des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Ogni anno cerchiamo suggestioni fantastiche per dare un senso al giorno dei morti. Sì, perché il giorno dei morti di senso comunemente ne ha perso un pochino. Qualche fila al cimitero, qualche ricordo sui giornali, la facezza del signore che ha scritto sulla lapide che non voleva essere seppellito assieme alla moglie che gli ha rovinato la vita, ma poco più. Questi poveri morti si ricordano poco, si ricordano male, vengono seppelliti, dimenticati, cancellati. Nessuno vuol più saperne, nessuno vuole più la certezza che si debba morire, perché viviamo tutti in una sorta di eternità prolungata, una sorta di vecchiezza allungata, diluita. Ma invece noi oggi vogliamo parlare di fantastici morti, forse tra gli ultimi morti fantastici, ma perché tutte le epoche, tutte le guerre, tutte le epopee ci hanno dato dei fantastici morti, che sono gli eroi, sono coloro che hanno immolato la loro vita per una causa nobile, coloro che con grande disprezzo e con grande senso di disprezzo naturalmente per il senso di autoconservazione e senso del sacrificio hanno immolato la loro vita. Non vogliamo mancare di rispetto ai tanti che prima e dopo gli anni che noi vorremmo ricordare questa mattina immolarono la loro vita. Ma di questi particolari morti forse abbiamo qualcosa a dire che è poco conosciuto da chi ci ascolterà. Ci fu una generazione di giovani ribelli. Voi direte che novità. Sono 20 anni, 30 anni che stiamo a parlare di giovani ribelli. Eh sì, ma questi furono giovani ribelli molto particolari. Furono quegli scapestrati scavezzacollo, molti figli di papà, molti nobili, molti pieni di quattrini, molti che viaggiavano, erano pieni di donne, erano anche bellissimi e romantici, si vedono nelle iconografie, emergenti seminudi con le loro barbe perfette da dei sudari che li hanno immortalati alla gloria dei millenni. Beh, questi eroi risorgimentali, questi ragazzi che fecero l'Italia, che si ricordano in occasione dei 150 anni dell'unità della nostra nazione, hanno delle particolarità, delle peculiarità. Furono ragazzi un po' diversi da quelli che erano i loro contemporanei, ragazzi che volevano cambiare il mondo, ragazzi che seguivano una sorta di utopia. L'Italia unita sembrava quasi una bestemmia, che senso ha, dov'è l'Italia unita? Beh, loro per quello ci lasciarono la pelle, e ce la lasciarono veramente, si fecero veramente tanta galera. E allora non c'erano gli avvocati, non c'erano i quotidiani amici, e non c'erano i gruppi politici, non c'era la possibilità di pentirsi, non c'era la possibilità di ritrattare, non c'era la possibilità di diventare editorialisti di grandi giornali, e quindi tutto veniva cancellato. No, si faceva una galera, venivano tagliati a pezzi, impiccati, fucilati, ammazzati, depezzati. Beh, questi sono gli eroi del Risorgimento. Per parlare di loro questa mattina abbiamo in studio Marco Pizzo. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Noi dobbiamo dare l'annuncio questa mattina di una fantastica mostra che domani si inaugurerà proprio al Vittoriano, ci sarà anche il Presidente della Repubblica, proprio dedicato a questa gioventù ribelle. Questi ragazzi erano talmente ribelli e anche talmente fuori di testa, mi permetto di dire, che ebbero un iter di quasi santificazione. Domani all'interno del Museo del Vittoriano, dirà esattamente come Marco Pizzo, come, dove e in che maniera, saranno esposte le reliquie dei martiri del Risorgimento. Pezzi d'ossa, ampolle di sangue, ciocche di barba e di capelli, coperchi di bara. Insomma, Marco Pizzo, come mai diventarono quasi santi questi che erano gli eroi del pensiero laico? Diventarono santi perché diventarono praticamente delle reliquie, dei santi della nuova religione dello Stato. Il Risorgimento italiano, è una cosa che spesso si dimentica, è stata la rivoluzione italiana. È stato un movimento che ha coinvolto tantissime persone e che in qualche maniera è stato l'annuncio della modernità. Per questo la mostra di domani è l'inizio di una serie di eventi che noi faremo col Ministro della Gioventù, che vogliono proprio ricordare come l'inizio del ribellismo dei giovani disperati che si rivoltano alla società nasce proprio nell'Ottocento. Sarebbe interessante questa mattina, per chi avesse voglia, per chi non sta con il pacco dei crisantemi a far la fila al cimitero, per chi non sta sonnecchiando, per chi ancora bestemmia per questo ponte lussuosissimo che si è prenotato da tempo in luoghi ameni villeggiature e invece se ne sta con l'acqua fino alla vita a lottare con gli esondamenti dei vari fiumi, di telefonare all'800240024 e capire quale sia la differenza fra le varie generazioni di gioventù ribelle. Questi giovani ribelli, come ho già detto, a differenza di tanti altri giovani ribelli, non ebbero possibilità di tornare indietro, di tornare sui loro passi. O morivano o non c'era altra alternativa. Una volta fatto il passo, non c'era solamente modo di tornare indietro. E queste figure di giovani martiri risorgimentali erano tutti segnati, secondo me, da una sorta di senso di poetica astrazione rispetto al periodo in cui vivevano. Erano considerati o assimilabili a una sorta di odierni scavezzacollo, pensatori strani, o con le generazioni passate di cantautori, poeti, raccontatori degli aspetti singolari della contemporaneità? Erano contraddistinti da una forte irrequietezza, e questo è il senso che poi li rende affascinanti. Cioè, se uno vede la vita di Bixio, di Manara, di Goffredo Mameli, che sono noti magari come immaginette un po' polverose perché sono stati quelli che hanno fatto l'inno degli italiani, e invece la loro vita, vede una vita avventurosa, in continuo movimento, anche figure critiche, come per esempio la contessa di Castiglione. La contessa Castiglione, donna bellissima, tra 18 e 20 anni, contava tra i suoi amanti Napoleone III, Vittorio Emanuele II, Cavour, Nigra, tutti contemporaneamente. Ma aveva un senso di protofemminismo. È la prima che dice che lei è sola responsabile delle sue azioni e non gli importa niente delle convenzioni sociali. Ecco, questa lucidità d'azione è la lucidità della modernità. Quindi una sorta di aristocratica lussuria e libertà totale dei propri sensi, ma allo stesso tempo una grande combattente, quasi nessuno si urti, era una protobrigatista, una ragazza di brava famiglia che si vestiva da uomo e andava a combattere. Ma lei, calcoliamo questo, lei decide a 18 anni di farsi fotografare da un fotografo una fotografia al giorno, fino alla vecchiaia. Decide a un certo punto di non uscire più di casa e vuole che la fotografia documenti la sua decrepitezza. Si fece fotografare anche le cosce, che fu una cosa all'epoca, cioè diciamo arrivò fino al ginocchio, non più su. Ma centinaia di foto di piedi che stanno al Metropolitan Museum di New York. Che per i tempi era considerato quasi un nudo integrale farsi fotografare fino al ginocchio. Era una cosa apocalittica, oscena. Sentiamo la contessa di Castiglione. Mi sono sentita fuori posto dappertutto e sempre. E non mi sento bene se non quando sono accanto ad esseri superiori. Solo chi indovina chi io sono veramente mi ama. Allorché vivevo in società, sono stata giudicata altera e superba con i miei eguali. O almeno con quelli che le leggi umane mi hanno costretta a trattare come tali. Ho fatto sforzi sinceri per mitigare questa mia fierezza. Perché mio malgrado la compagnia della maggior parte degli uomini e delle donne mi fa provare una stanchezza, un disgusto, che assomigliano stranamente, lo ammetto, ad un disprezzo totale. Per questa ragione mi sono sempre spostata. Questa era Cristiana Capotondi che interpretava la contessa di Castiglione per un supporto audiovisivo che sarà legato comunque al catalogo di questa mostra. Io vorrei entrare un po' nello specifico però di queste reliquie dei martiri risorgimentali, perché c'è questo grosso paradosso e questa follia di costruzione di oggetti che avessero un potere, derivato proprio dal potere di folle intrepidezza di questi ragazzi. Mi viene in mente che nel Museo del Vittoriano è esposto il frammento del mandorlo sotto il quale morì uno dei fratelli Cairoli, una scheggia di legno di un mandorlo che stava a Villa Glori il giorno che arrivarono questi fratelli Cairoli navigando l'Aniene, salirono su ai monti Parioli, incontrarono i pariolini del tempo, si unirono e andarono a combattere a Villa Glori. Li fecero a pezzi i carabinieri del Papa, più o meno mi sembra erano svizzeri carabinieri, ma sotto questo mistico mandorlo, che viene sempre rappresentato in fiore anche se era ottobre, morì un fratello Cairoli. E perché è conservato? È conservato perché gli oggetti vivevano una sorta di santità per contatto. Essendo stati a contatto con un santo martire della patria, ecco che diventavano in qualche maniera degli oggetti sacri, con dei poteri taumaturgici. La cosa più nota è che Giuseppe Garibaldi diede il calco della sua mano. Di questa mano vennero fatte delle copie in metallo che venivano vendute come una sorta di mano del santo. Chi la toccava in qualche maniera veniva ispirato di virtù eroica. Se no se la imponeva come una reliquia, come i santini con i pezzi della tonaca di Padre Pio che girano, che uno se li appoggia se sente male, qualcosa del genere. Addirittura c'erano una serie di fan di Garibaldi che chiedevano ciocche dei suoi capelli e della sua barba, che portavano in dei medaglioni e in qualche maniera si sentivano protette dalla malattia nel momento in cui avevano oggetti del corpo dell'eroe dei due mondi. Ecco, io ho visto una sorta di quadrettino, una specie di reliquiario che sta al Vittoriano, che domani sarà esposto, con i peli della barba e i capelli di Piero Maroncelli, un personaggio stranissimo, anche lui era un cantautore del tempo. Allora, Piero Maroncelli si sa perché è stato uno dei colleghi di Silvio Pellico nelle mie prigioni, ma pochi sanno che dopo che gli venne tagliata una gamba, dalla Francia decise di andare a New York, fece un gruppo di ribelli poeti, fondò un giornale, diventò una sorta di hippie ante litteram. Ed ecco che tutta la sua figura diventa una figura proprio ai margini della ribellione. Una ribellione sempre vissuta però con intellettualità aristocratica. E questa è una particolarità dell'Ottocento. Forse la cosa più interessante come parallelismo rispetto agli eroi dei nostri tempi è che lui lavorò alla Casa Ricordi prima di essere imprigionato nello Spielberg. Quindi mi immagino questo ragazzo scapestrato che è musicista e lavora come oggi fosse il più grande produttore di musica contemporanea di gran moda, alla Casa Ricordi. Poi scende in clandestinità, si affilia alla carboneria insieme a Silvio Pellico e va in galera, sta allo Spielberg. Gli mozzano la gamba, regala la rosa al suo medico carnefice e via dicendo. Poi quando esce se ne va a New York. E a New York continua a fare questa attività di musicista e di lui, almeno letto, pare ebbe una sorta di infatuazione letterario-poetica Edgar Allan Poe, che scrisse un piccolo documento proprio su questo stranissimo zoppo eroe risorgimentale che sembrava tanto strano ai suoi occhi. Vorrei adesso però far ascoltare qualcosa su quello che secondo me è il reperto più fantastico che domani sarà esposto, perché è stato soprattutto un secolo nascosto nei sotterranei del Vittoriano, che è il coperchio della bara di Mazzini. La bara di Giuseppe Mazzini. Il coperchio della bara di legno di pino che contenne Giuseppe Mazzini fu classificato e dotato di expertise, ma restò occultato nei sotterranei del Vittoriano. La fattura è grossolana e la sagomatura è tipica di una cassa destinata all'infossatura nel terreno per morti non abbienti. Nel caso di Mazzini, questo presidio cimiteriale fu usato principalmente come il tavolo anatomico su cui fu posto il cadavere del padre della patria perché fosse imbalsamato. Per questo fu chiamato da Lodi il professor Paolo Gorini, matematico e scienziato, noto preparatore di cadaveri che pietrificava, con un procedimento da lui stesso inventato e il cui segreto si portò nella tomba. Quando il Gorini arrivò a Pisa, Mazzini era già morto da 2 giorni e si stava decomponendo. L'imbalsamatore poté solo disinfettare la salma per bloccare l'avanzare della putrefazione. Il cadavere, anche se non pietrificato, fu comunque esposto, ma fu presto ritirato. Molti si erano lamentati del lezzo che emanava, effetto imbarazzante per chi sarebbe dovuto essere morto in odore di santità, seppur laica. Ciò che restava di Mazzini finì così per essere tumulato a Staglieno. Marco Pizzo, perché i mazziniani volevano che il loro apostolo fosse conservato integro come la salma di un santo attraversato dalla grazia? Chiamarono questa sorta di folle scienziato che imbalsamava pezzi umani, animali, che sembra che avesse il segreto di pietrificare i cadaveri, se lo portò nella tomba, nessuno seppe come faceva, ma con Mazzini gli andò male. Perché il culto del corpo e della morte fu l'ultimo avamposto laico dell'Ottocento. Mazzini rappresentava in qualche maniera l'antipotere pontificio, lo spirito liberale della Repubblica. E quindi ecco che pietrificare il corpo diventava una immortalità materiale. E il corpo di Mazzini diventò proprio una sorta di mummia della Repubblica, come è stata definita da Luzzatto. Adesso una statua praticamente. Una statua di carne. Anche perché durante tutto l'Ottocento, e questa è un'altra cosa divertente, tra virgolette, c'è un viavai di corpi e di cadaveri. Perché a seconda di dove erano morti, i fratelli Bandiera, Orsini e tanti altri, Nel momento in cui venivano chieste le salme, queste salme venivano trasmigrate. Manin muore a Parigi, a un certo punto viene trasportato a Venezia e quindi viene trasportato il cadavere. E in questo senso anche il voler fare la mostra al Vittoriano, dove c'è il Milite Ignoto, è una sorta di omaggio per questi corpi erranti che sono stati proprio una specifica caratteristica della nostra Repubblica. Ecco, come ti spieghi te, Marco Pizzo, che in realtà questo spirito di cui era intriso il Risorgimento, spirito giacobino, fortemente massonico, antipapa, antipreti, antireligione, poi in realtà andasse a recuperare queste forme di conservazione della memoria, di santificazione della memoria proprio in realtà della religione cattolica? Perché c'è una forte mistica della politica. Nel momento in cui Mazzini dice che i principi sono Dio e popolo e si pone come guida spirituale di una nazione, ecco che si fa un'etica dello Stato, un'etica che può essere un'etica quasi religiosa. Se leggiamo le lettere di questi pazzi, Mameli, Manara, Orsini, eccetera, vediamo proprio la volontà di essere dei martiri della Repubblica, cioè l'azione come santificazione. E non a caso si può mettere un ottimo parallelo, secondo me, tra questi martiri risorgimentali e l'irrequietezza di tanti santi cristiani del 5 e del 600. Sì, che venivano considerati anche loro dei folli, ma allora era l'amore folle di Dio che muoveva le loro azioni. In questo caso era questa utopia che sembrava folle nelle sue premesse, di costruire un'Italia unica di tante realtà che in realtà sembravano benissimo poter vivere separate tra di loro. Ma infatti era proprio questo spirito di fantasia al potere, si diceva nel 68. Ecco, è proprio questo spirito di ribellione, ma finalizzato a un'azione concreta. L'unità d'Italia, l'Italia veniva vista come una figura santificata, per cui ogni azione, ogni gesto trovava la sua giustificazione proprio per la giustezza etica della causa. 800240024. Capisco che la mattina dedicata comunque al ricordo dei propri defunti potrebbe fuorviare l'idea che ci possano esistere dei ricordi di personaggi così in fondo poco conosciuti, perché dei martiri del Risorgimento noi abbiamo visioni molto parziali. La mia generazione ha la versione scolastica basata su un'aneddotica che comunque ci ha permesso di conservarli, di ricordarli attraverso tanti episodi, ma come le vite dei santi. Le agiografie sono fatte di tanti piccoli episodi: la fanciullezza, la scoperta della vocazione, i primi miracoli, la gloria, il martirio, il ritorno attraverso la grazia che scende nei fedeli, via dicendo. Ma poi a un certo punto c'è stata una sorta di rimozione. Abbiamo vissuto un ventennio circa di rimozione quasi irosa nei confronti di questi martiri del Risorgimento. Sembravano costruiti soltanto su un'immagine retorica e passata. Invece oggi quale può essere la riscoperta che se ne fa? È una riscoperta proprio dei loro principi ideali. Cioè nell'Ottocento nasce la modernità contemporanea e vedere le loro vite, e ancora meglio leggere i loro pensieri, dà modo di capire come l'unità d'Italia non sia stata fatta dalle battaglie, dalle guerre di indipendenza, ma da un movimento di idee che infiammò proprio intere generazioni di giovani. E il senso che si è un po' perso è questo voler mettere sul piatto della bilancia tutto. Io per quest'idea metto la mia vita, ma lo faccio senza retorica. Muoio non per essere un eroe, ma perché sento che questo è il dovere di ogni cittadino. Sì, perché noi siamo abituati alle generazioni più recenti di giovani ribelli, che sono ribelli a tempo determinato. In realtà sono ribelli per un certo periodo della loro esistenza, sono ribelli finché in fondo appoggiano su un consenso generale, finché l'essere ribelli comunque è considerata una ribellione che dà lustro a coloro che partecipano. Molti hanno fatto anche scelte estreme, scelte brucianti, scelte che li hanno portati o a morire o a avere lunghe detenzioni, ma in realtà il fatto che oggi ci sembra di osservare che tutti i ribelli si sono tranquillizzati, sono tutti perfettamente integrati, scrivono sui grandi giornali, hanno anche cariche pubbliche, comunque fanno parte del mondo dell'opinione, del mondo della scrittura, del mondo delle ospitate televisive e via dicendo. Questi ribelli erano ribelli a vita o a morte, che forse era più facile dire. E loro stessi non è che non avessero proprio nulla da perdere, in realtà avevano anche posizioni privilegiate nella società, mi sembra, generalmente. Non erano dei poveracci disperati, dice vabbè, ci ribelliamo perché tanto non abbiamo nulla da perdere. No, avevano proprio tutto da perdere ed è questa la loro forza. Cioè loro pensano che la loro vita deve essere così esasperata e così ai margini da mettere in gioco tutto. Loro fanno una vita spesso errabonda di povertà, pur essendo invece spesso dell'alta aristocrazia o dell'alta borghesia, ma capiscono comunque che la loro finalità di azione non deve avere una ricompensa. In questo posso richiamare una deviazione alta. Kant diceva che esistono due tipi di azioni, una amorale e una morale. L'azione morale non presuppone nessuna ricompensa. Io faccio una cosa non per essere giustificato, per essere chiamato bravo, ma la faccio perché sento proprio questo imperativo categorico che me la fa fare. Ecco, la gioventù risorgimentale ha proprio questo imperativo categorico, che è un principio etico assoluto che noi abbiamo perso. Ecco, cosa facciano i loro contemporanei che in realtà rifuggino dall'impegno, per capire la vita media di questi ragazzi? Perché oggi quando diciamo appartengono a delle classi privilegiate è ben differente a quello che può essere un parametro con situazioni odierne. Oggi allora un giovane appartenente alla nobiltà o all'alta borghesia era anni luce distante dal figlio del popolo. Oggi siamo tutti più omogenei. Normalmente qual era la loro vita se non si fossero impegnati nella guerra risorgimentale? Fare una mazza dalla mattina alla sera praticamente. Esatto, cioè vivere di agi, perché tutto gli consentiva di non avere attività operative. Erano ricchi. Abbandonano tutto per questo spirito e per questo è uno spirito ribelle. 800240024, cosa vi ispira l'idea di questa gioventù ribelle che ci eravamo dimenticati? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Qualcuno ha messo sotto vetro il grosso grumo di sangue zampillato da un ignoto martire risorgimentale caduto a Mentana il 3 novembre 1867. Il sangue, fuoriuscito dal corpo del caduto, è stato imprigionato in una rudimentale ampolla di fattura artigianale. Come da sempre racconta ogni maestro di storia, la sorte della battaglia fu determinata dal fatto che i francesi, che affiancavano gli zuavi del Papa, fossero equipaggiati con il nuovo Chassepot, modello 1866, un fucile fantastico a retrocarica che poteva sparare 12 colpi al minuto. Per l'epoca, il Chassepot corrispondeva a quella che oggi chiameremmo un'arma spaziale. Si può ipotizzare che fu proprio uno di quei proiettili a provocare un'esplosione così poderosa da strappare quella massa sanguinosa dalla carne di un combattente garibaldino. Come ancora oggi vediamo, la materia sanguigna sembra ancora misticamente fluida, ma solo perché è incastonata, come una santa reliquia, tra due lenti concave che ne esaltano il volume e la lucentezza, permettendone inoltre la visione a 360 gradi. Meravigliosa questa sorta di meraviglioso reliquiario costruito da un garibaldino per il suo compagno morto a Mentana. Mi sono inventato, forse colpito da una Chassepot, può essere, può non essere, non lo so. Ha messo dentro due lenti, di modo che questo sangue sembra sempre vivo, sembra sempre quasi fluido, quasi avesse voluto imitare il miracolo di San Gennaro. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento, che domani inaugurerà questa mostra dedicata alla gioventù ribelle, in cui appariranno tutte le meraviglie che stiamo raccontando questa mattina. È plausibile che ci sia stata l'idea di dare una sorta di vivacità a questo sangue? Sicuramente, anche perché la teca è realizzata come si usava in Santa Romana Chiesa per i cosiddetti reliquiari a capsula, cioè erano delle capsule di cristallo dentro le quali venivano conservate le reliquie dei santi, e siccome la lente era speculare le faceva diventare più vivide, più grandi, funzionava da lente di ingrandimento. La stessa cosa è questo sangue, che diventa un simbolo proprio di martirio. Abbiamo al telefono qualche ascoltatore, sta cominciando a reagire, anche se mi rendo conto che c'è difficoltà a parlare di personaggi poco conosciuti, soprattutto malamente raccontati. La generazione dei cinquantenni a cui appartengo è stata abituata a questa sorta di shock. L'unica storia che noi concepivamo al tempo dell'elementare era quella del Risorgimento, anche perché nel 1960, era il centenario dell'Unità d'Italia, io facevo la prima elementare, mi fecero fare la bandierina, c'erano grandi celebrazioni, quindi pensavo quella fosse la storia. Mio nonno ancora mi raccontava dei garibaldini, vedevamo ancora dei garibaldini alle parate militari il giorno della festa della Repubblica, dei vecchietti con la camicia rossa, ma è possibile, Marco Pizzo? Sì, sì, c'era il cosiddetto garibaldinismo, che proseguì fino alla Seconda Guerra Mondiale. C'erano dei gruppi di ex garibaldini che continuavano a vestire proprio la giubba rossa, e se uno vuole vedere le giubbe di questi garibaldini d'antan degli anni 40 basta andare al museo di Porta San Pancrazio a Roma. Ecco, poi invece ci fu dal 68 in poi la denigrazione. Il Risorgimento era tutto ciò che veniva associato chissà perché al fascismo. Risorgimentale vuol dire fascista, quando poi c'erano abbastanza differenze, mi pare. Ma sì, perché si prese la vulgata del fascismo, che in qualche maniera l'azionismo fascista derivava dall'azionismo risorgimentale. Ma questo, che di fatto aveva pochissime fondamenta concettuali, fu la cagione prima della sua scarsa fortuna dopo l'unità, dopo la Repubblica, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cancellando il fascismo si cancellò anche il Risorgimento. Per questo nella mostra noi abbiamo... a cui subentrarono gli Intillimani, tutte le saghe folcloriche venivano da fuori. Esatto. Ma per questo nella mostra noi allestiamo una sezione in cui si fa vedere proprio il percorso del Risorgimento dal cinema del muto al Risorgimento durante il fascismo al Risorgimento dopo la Repubblica, proprio per far vedere la connotazione storico-critica che gli è stata data. Sentiamo qualche ascoltatore. Franco, buongiorno Franco. Buongiorno. Dove si trova in questo momento? Sento presso un ristorante anche importante a Goderzo, vicino a Goderzo. Ah, perché sentivo dei rumori strani. Sì, perché le mura sono spesse, quindi sono usciti in strada e ci sono dei camion. Ah, ecco, bene. Bene, allora sentiamo Franco. Quando sono stati celebrati i 100 anni dell'Unità d'Italia, io ero alle elementari e ricordo sì esattamente la retorica che ora sento attraverso questa radio, però parlando con la gente... No, ma retorica non è una parola, scusi, non accetto il termine retorico perché lo sto facendo questa mattina, mi sembra il mio atteggiamento sia antitetico ad ogni retorica, sto raccontandolo come se fosse una sorta di romanzo, come fosse la traccia per un videogame, non mi pare di fare retorica questa mattina. Benissimo, benissimo, allora diciamo questo romanzo, gli elementi, gli assi portanti, le strutture portanti di questo romanzo c'erano proposte imposte dalla scuola e dalle manifestazioni ufficiali. Però la massa della popolazione raccontava un'altra storia, e io parlo dal Veneto e nel Veneto noi abbiamo vissuto un'altra storia e oggi si sta cercando di cancellare, ma che comunque, e quando voi dite... E qual era l'altra storia? Qual era l'altra storia? L'altra storia era quella che quello che viene definito il Risorgimento altro non è stato che una serie di guerre coloniali dello Stato Sabaudo e dei suoi settori, l'Inghilterra in primis, e per disarticolare un sistema di stati più o meno gradevoli, più o meno efficienti nella loro organizzazione, ma che comunque provocavano certamente, non provocavano le guerre. Che quindi lei, diciamo, ha una nostalgia austro-ungarica. Questa è una grande sciocchezza, mi scusi. No, è una domanda, scusi, una domanda, può dire di no, mica. Le chiedo, la nostalgia austro-ungarica, lei dice no. Mi scusi, l'Austria-Ungheria nasce dopo l'annessione, l'occupazione del Veneto da parte dello Stato italiano, perché l'Austria-Ungheria nasce dopo il 1866, quindi è già una imperfezione, una non correttezza nell'uso di termini. Marco Pizzo, scusa, visto che abbiamo vicino uno storico del Risorgimento, forse ho detto una stupidaggine. Beh, no, nel momento in cui si afferma che l'unità d'Italia è frutto di guerre coloniali, io chiederei all'ascoltatore come spiega che nel 66 il Veneto diventa italiano anche se l'Italia ha perso tutte le battaglie. Ma perché? Beh, me lo insegna lei, mi scusi. Lo insegna lei. C'è stato questa alleanza tra il appena nato, appena messo in piedi, malamente messo in piedi, tutt'oggi malamente sta in piedi, Stato italiano, e la Germania. Esattamente come durante la prima guerra mondiale l'alleanza dello Stato italiano con la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti ha portato a quella che chiamano vittoria e che per i veneti non è stata una vittoria, ma non perché, mi scusi, poi torno al 1866, non perché nel 1918 qui si fosse come veniamo dipinti austriacanti, ma perché la vittoria dell'Italia, dello Stato italiano nel 1918, grazie non alle sue armi ma grazie alle armi, e lo sapete benissimo, degli americani e degli inglesi, per cui nel Veneto le rivolte di contadini contro le truppe inglesi e americane erano... Vabbè, adesso scusi, non è che la voglio interrompere, non possiamo rifare una lezione di storia. Mi dica proprio, perché mi interessa, lei cosa si sente? Quindi non si sente italiano, non si sente... cosa sente? Veneto come una nazione? Non lo so, va bene. Io sono un cittadino europeo e mi sento a casa in Francia, come a Torino, come a Roma, come in qualsiasi altra città grande o piccola d'Europa, come mi sento a casa in Africa o negli Stati Uniti, in qualsiasi questo altra parte del mondo. In questo le sono molto vicino, anch'io mi sento a casa questo, ovunque. Questo mi fa piacere e magari potremmo anche conoscerci. La mia lingua, la mia civiltà, il mio modello di Stato è lo Stato Veneto. Cos'è lo Stato Veneto? Ma lo Stato Veneto è quello che oggi è al primo posto in Europa per riciclaggio dei rifiuti, al primo posto in Europa, perché superiamo anche la Svezia. Sì, vabbè, ma lo Stato Veneto, scusi, è un'entità fantasiosa, non c'è lo Stato Veneto. No, lo Stato Veneto è un'entità concreta, lo sa benissimo che vuol dire fantasiosa. Tanto di fatto esistono delle istituzioni riconosciute. Sì, esistono delle regioni, ma fanno parte di uno Stato le regioni. Guardi, questo è uno gioco un gioco degli specchi. Vabbè, adesso non posso passare tutta la trasmissione. Abbiamo capito, lei si sente un... 8.01. Cos'è successo? Niente, è partito qualcosa. Si sente appartenente a una realtà territoriale utopica, non definita entro dei termini di Stato. Mi fa piacere, ognuno può pensare, anch'io penso di appartenere, che ne so, a una mia personale utopia. Marco Pizzo, di dire qualcosa, poi passiamo all'altro ascoltatore. All'ascoltatore consiglierei di vedere quello che è successo a Venezia nel 1848-49, quando Manin ha fatto la Repubblica di Venezia e ha chiesto il soccorso a tutti gli italiani, oppure di andarsi a prendere un caffè al Caffè Pedrocchi a Padova e vedere come alle pareti ci siano ancora infissi i proiettili dei moti del 48 affinché Padova diventasse italiana. Lasciamo la linea alle informazioni del traffico velocemente, poi andiamo con altri ascoltatori. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. La vertebra spolpata di un martire di Belfiore è stata conservata come oggetto taumaturgico. Ogni caduto di Belfiore, non per caso, è chiamato martire, alla stessa maniera dei primi testimoni della fede. Anche colui cui appartenne la vertebra è dunque rappresentazione esemplare di chi sia morto per aver vissuto con la schiena dritta. Il reperto osseo è sicuramente un pezzetto dei resti dei 30 martiri di Belfiore, impiccati tra il 1851 e il 1853. Costoro, una volta giustiziati, furono seppelliti per sommo disprezzo degli austriaci in una fossa comune e in terra sconsacrata. Le ossa dei martiri furono ritrovate solo nel 1866 e per una fatalità simile ai miracolosi ritrovamenti ricorrenti nella tradizione di molti santi. La persona che permise che quell'ossicino diventasse una reliquia lo chiuse in uno scatolino. Era un manufatto che aveva la rudimentale pretesa di essere un reliquiario. L'interno era foderato di raso rosso, ma all'esterno qualcuno appose il simbolo della croce. Sembra quasi l'intento di consacrare quell'oggetto, ma allo stesso tempo di compiere un gesto riparatore, un atto di pietà postuma per quella spoglia cui fu negata la cristiana sepoltura. Visto che l'ascoltatore dello Stato Veneto ci ha accusato di retorica, dico, questi testi l'ho scritti io, è colpa mia. Questa è la mia visione particolare delle ossicine, delle ampolle di sangue, delle bare di Mazzini che mi ha messo in mano Marco Pizzo. Qualche settimana fa mi ha detto, ma inventaci sopra qualcosa. E domani sentirete che l'audioguida al Vittoriano sarà la mia voce che racconta queste reliquie. Quindi mi prendo tutta la responsabilità di questa onirica visione delle sacre reliquie del Risorgimento, che se per qualcuno sono retorica, ma me ne faccio veramente un baffo. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, su questa vertebra del martire di Belfiore. Già martire in sé aveva la definizione di qualcuno destinato comunque alla santificazione. Sì, c'è questa sorta di veicolo di santità. Il martire, in qualche maniera, è colui che ha immolato la sua vita per una causa. In questo caso la causa è quella dell'unità nazionale. Ma nel momento in cui si dice che queste attività espositive per i 150 anni hanno qualche cosa di retorico, io vorrei dire che la mostra che andiamo domani a inaugurare, Gioventù Ribelle, e che è stata fatta fianco a fianco con un ministro del governo italiano, che è l'onorevole Giorgia Meloni, è una mostra quantomeno retorica possa esistere, in quanto ci stanno dai supporti multimediali ai materiali. Beh, oddio, se ci ha chiamato me questo ti potrebbe già creare qualche problema. Ma è proprio la nuova maniera di leggere la storia del passato. Oramai si fa storia con nuovo spirito e questi cimeli servono a rievocare emotivamente una realtà. È proprio il contatto emotivo con questi oggetti che crea un rapporto diretto con la storia. Questo è lo spirito con cui è nata questa voglia di realizzazione di questa mostra. Valerio, buongiorno. Buongiorno. Senta, io mi rifacevo al discorso che lei ha accennato prima sul Risorgimento, che è stato organizzato e fatto dai massoni. I massoni non erano e non sono gente contro la Chiesa. I massoni si muovono con un concetto di patria e di Dio. Purtroppo la gente confonde sempre la massoneria contro la Chiesa. La Chiesa... è difficilmente conciliabile, sì, i due concetti. Non siamo sempre ecumenici. Non è vero, perché noi abbiamo... Vada da un prete, dica sono massone, e le dirà quanto è contento. Ma lei sa quanti preti e quanti vescovi sono massoni? Sono stati in massoneria? Sì, ma non è bello questo. Perché non è bello? Perché sono due... Parlano di amori i massoni, sa, non parlano mica di truffe. Ma guardi, esiste un'idea in cui tutto è riconducibile a tutto, ma sono due realtà ben separate. Da una parte esiste un laicismo rispettabilissimo e anche molto interessante, che basa tutto sul grande architetto dell'universo, d'altra parte esiste una visione trascendente della vita legata comunque a un concetto ben diverso. Marco Pizzo, oltre a essere direttore del Museo Centrale Risorgimento, è anche archivista degli archivi vaticani, quindi puoi benissimo spiegare queste differenze. Consiglierei all'ascoltatore di andare a vedere i documenti all'archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, ovvero sia al Santo Uffizio, dove c'è un fascicolo abbastanza corposo, composto da qualcosa come 5.000 pagine dalla fine del Settecento all'Ottocento, in cui c'è la condanna pontificia agli affiliati alla massoneria, in quanto atei e senza Dio. Questo l'ha detto il Papa, che per un dogma è infallibile e quindi è così. Ma il Papa era anche infallibile quando hanno bruciato Giordano Bruno e quando hanno condannato Galileo. Ma che discorsi, l'infallibilità del Papa non esiste. Questa è la mattina degli storici fai da te. Scusi, ma non possiamo rimettere adesso in discussione. Siamo d'accordo, è una brutta cosa bruciare le persone nelle piazze. Non dico che sia così, ma dal loro punto di vista... Sì, ma guardi, fra le reliquie che sono esposte domani al Vittoriano, ce n'è una bellissima, mi ha colpito. È un'edicola che veniva esposta in una chiesa romana, che era composta di due parti. La parte superiore diceva: chi viene in questa chiesa dalle 5 del giorno precedente un'esecuzione capitale fino al momento dell'esecuzione, si confessa e si comunica, avrà l'indulgenza plenaria totale. E sotto la seconda parte, la parte mobile, ci sono i nomi delle persone che venivano volta per volta ghigliottinati, impiccati, depezzati, mazzolati, in nome appunto di Dio, perché era giusto secondo loro, dal punto di vista della dottrina della fede, fare questa cosa. Marco Pizzo. Certo, perché c'era l'indulgenza plenaria in causa delle pene capitali e c'era la Congregazione della Buona Morte o di San Giovanni Decollato, che mantiene puntualmente l'annotazione, manteneva, di tutti quelli condannati alle pene capitali con le indulgenze che venivano concesse. Era una sorta di spettacolo tra il laico e il cristiano in cui tagliare la testa, la decapitazione comunque aveva un concetto in sé di santità. Era morto in qualche maniera Satana sulla terra ed ecco che quindi il buon cristiano ne aveva del bene celeste. Noi stiamo raccontando semplicemente la storia, poi mi astengo dai giudizi, bene, male, giusto, non giusto, sono posizioni oggettive o anche soggettive che però non mi interessa in questo momento di trattare. Gabriele. Buongiorno. Eccomi qua. Io volevo ritornare sul discorso del, diciamo, di questi martiri del Risorgimento che erano di buona famiglia, aristocratici o alta borghesia. Erano fantaricchi rispetto al nostro punto di vista. Probabilmente quindi avevano anche la possibilità di scegliere anziché lottare ogni giorno per il sopravvivere, no, delle persone comuni, quindi senza nulla togliere, diciamo, di quello che hanno fatto, però ecco, non mettiamoli proprio in cima al piedistallo, ma consideriamoli anche per quello che erano. No, guardi, nessun piedistallo, semplicemente ho detto oggettivamente, era gente che aveva donne, cavalli, gioielli, possibilità di viaggiare, servitù, terreni, ricchezza, e poteva godersela tranquillamente, ha scelto un'altra strada. Marco Pizzo. Diciamo che lasciano proprio tutto, i loro beni e i loro possedimenti, per seguire la strada del ribellismo risorgimentale. Da Orsini a Pisacane, nel momento in cui decidono la via dell'esilio, debbono continuare a vivere mendicando all'estero cibo. C'era Mazzini che vendeva le sue effigi e la vendita delle immagini servivano in qualche maniera a aiutare gli esuli risorgimentali in Inghilterra o in Francia, se no non avevano di che sussistere. Orsini, ad esempio, diamo un'idea della ricchezza di Orsini per far capire di chi stiamo parlando. Orsini, diciamo che era un grandissimo possidente terriero e avrebbe potuto benissimo passare il resto dei suoi giorni standosene a casa tranquillamente accanto al fuoco. Invece decide di fare una vita errabonda che gli causò notevolissimi problemi economici. Un grande tenore, Mario De Candia, che era famosissimo nell'Ottocento, addirittura andò a New York a inaugurare i teatri dell'opera, finì poverissimo proprio per questa sua attività filantropica. Era un mettere tutto sulla peso della bilancia e perdere tutto. Allora, domani ricordiamo Marco Pizzo, esattamente dov'è che si potranno vedere le cose di cui abbiamo parlato questa mattina? Da domani si potranno vedere al Vittoriano e poi in giro per l'Italia. Arrivederci, grazie a Marco Pizzo, grazie a quelli che hanno partecipato, grazie a tutti coloro che ci hanno posto critiche, ma una sola cosa non accetto che mi si dica, che io sia retorico, non sono mai retorico. A domani. Alors tous deux, on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.